La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 22 di aprile. Io lo so che molti di voi già stanno, per fortuna loro, sono felice pensando al fine settimana lungo, perché poi c'è lunedì col 25 aprile, però in questo pomeriggio torniamo su un tema, col tema della puntata, e e per una volta siamo anche abbastanza contenti, quando le cose vanno bene bisogna dirlo, su un tema che abbiamo toccato alcune settimane fa, quando parlammo di un atto di grande importanza per la vita di noi tutti, perché è l'atto che traendo, diciamo, parafrasando una grande legge della storia della libertà americana, cioè il Freedom of Information Act, cioè la legge che disciplina il diritto di tutti, imprese e cittadini soprattutto, di aver diretto accesso ai dati della pubblica amministrazione, alle pratiche e così via, era impegno fin dall'atto costitutivo di questo governo, di Matteo Renzi, il suo Presidente del Consiglio, assumere un provvedimento del tutto analogo nel nostro paese, e cioè garantire tempi certi e una codificazione chiara del nostro diritto di avere accesso ai dati e ai procedimenti della pubblica amministrazione. Se non che qualche settimana fa abbiamo ospitato due interlocutori, una studiosa del diritto amministrativo italiano, Vital Bazzolino, che lavora alla CONSOB peraltro, e poi soprattutto chi insieme ad altre associazioni si è dato molto da fare di fronte al testo del governo, che ci aveva lasciato perplessi e delusi su molti punti, e quindi avevamo sentito, e lo risentiremo in questa campagna, Riparte il futuro, perché Riparte il futuro a un certo punto aveva detto no, il testo non va bene, e partì una richiesta anche di firme, una petizione popolare che è arrivata a quasi 80.000 firme, che noi stessi proponemmo di qua, perché in sintesi estrema, ve lo ricordo, quel testo ci aveva deluso perché innanzitutto consentiva un diritto, per modo di dire, cioè c'era ancora il silenzio senza motivazione da parte della pubblica amministrazione, trascorso un termine temporale nel quale praticamente la richiesta rimaneva inevasa e, ripeto, senza motivazione scritta. Poi perché comunque l'area sottoposta al diritto di eccezione era troppo vasta, quindi ci sembrava un testo non all'altezza di quello che lo stesso Presidente del Consiglio ci aveva detto. E il Presidente del Consiglio, io ho riconosciuto anche questo, nelle sue risposte dirette che ha fatto due volte su Facebook, alcuni gli avevano posto esattamente questo tema e entrambe le volte aveva detto: stiamo tentando in Parlamento di dare ascolto ad alcune delle critiche che ci sono venute. Allora, qual è lo sviluppo? Lo sviluppo è che la Commissione Affari Costituzionali, la Camera, ha votato un parere in cui vengono recepite buona parte delle osservazioni, e allora cominciamo innanzitutto la trasmissione proprio sentendo, delle tre voci che sentiremo in trasmissione, il parlamentare del PD che è la Commissione Affari Costituzionali, è stata relatrice del decreto che introduce il Freedom of Information Act nel nostro ordinamento, Anna Ascani. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie a voi. Allora, ci spiega un po' la prima questione, su quali punti lei come relatrice ha detto qui bisogna correggere? Sì, in realtà il grazie alle associazioni è condiviso, perché il lavoro che abbiamo fatto in commissione sarebbe stato impossibile senza il loro supporto e senza la pressione anche sull'opinione pubblica. Di quelle osservazioni le più importanti sono nel parere, in particolare quella che lei adesso ricordava sul silenzio diniego, cioè sul fatto che l'amministrazione potesse non rispondere alla richiesta di un cittadino. Noi abbiamo chiesto di rimuovere il silenzio diniego ed inserire invece l'obbligo di motivazione, cioè l'amministrazione deve motivare in caso di diniego. Poi abbiamo chiesto di rimuovere una parola che in realtà sembra innocua, ma non lo era, perché nel testo del governo c'è scritto che il cittadino deve identificare chiaramente i documenti che vuole vedere. Ora il problema è che un cittadino comune, ecco, non conosce il numero di protocollo, esatto, del documento che vuole andare a vedere, quindi noi abbiamo chiesto di rimuoverlo. Poi abbiamo chiesto che sia gratuito l'accesso, invece nel testo del governo era previsto un costo per il cittadino, e noi diciamo invece non è possibile che l'accesso agli atti sia a pagamento, per cui nel caso in cui ci sia il solo rimborso di supporti materiali, se qualcuno chiede 10.000 fotocopie, però l'amministrazione deve comunque motivarlo. In tutti gli altri casi di documenti in formato digitale, che speriamo siano sempre di più, invece deve essere totalmente gratuito. Altro tema importante che avevano sollevato le associazioni, che era previsto solo ricorso al TAR in caso di diniego all'accesso, e ricorso al TAR, lo sappiamo, ha un costo. È molto oneroso, sì. E quindi noi abbiamo chiesto invece, come era previsto nella delega, che ci sia una via alternativa, cioè che in prima istanza il cittadino possa invece opporsi in sede amministrativa, cioè possa chiedere all'amministrazione. E qui entra in campo ANAC, che noi abbiamo coinvolto direttamente perché il presidente Cantone è venuto in audizione, ci ha dato il parere sul testo del governo che per molti versi coincideva con quello delle associazioni di Foia for Italy, ma anche di Riparte il Futuro, e abbiamo chiesto a lui di fare un lavoro sulle linee guida, cioè le eccezioni riguardanti la privacy è giusto che restino, però serve che ci siano linee guida vincolanti per le amministrazioni che le restringano, ovvero cosa significa sicurezza pubblica, bisogna che l'amministratore del comune abbia un'idea chiara. No, certo, aspetti che la qualità del collegamento sta degradando. È in galleria, quindi adesso dobbiamo, mentre aspettiamo a richiamarla, perché c'ero due brevi questioni che volevo porre a Anna Scala, noi abbiamo intanto collegato anche appunto di Riparte il Futuro, una delle associazioni che già sentimmo, quella che poi ha animato la petizione insieme a Foia for Italy, in cui ci siamo tutti impegnati, Federico Angele, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Giannino e gli ascoltatori. Ah, sento... Do subito una buona notizia, sì. Che citava prima la petizione e non avevamo ancora superato, quando ci siamo sentiti, le 75.000, abbiamo ampiamente superato le 80.000. Ecco, infatti. Avete contribuito? No, è piccolo, ma io sono convinto che in questo caso bisogna fare catene civiche dal basso, perché questa è una cosa che riguarda veramente tutti, non c'entra la destra o la sinistra. Io ero allibito di fronte al testo che noi avevamo. Allora, è tornata con noi Anna Scani, resti lì Federico Angolè. No, non dipende da lei, ci mancherebbe altro. Allora, eravamo arrivati all'ANAC, che all'inizio non era molto coinvolto, mentre mi pare di capire che adesso nel vostro parere e per disponibilità stessa di Raffaele Cantone darà delle linee guida, insomma, sul fatto che sì. Le eccezioni altrimenti solo, erano troppo ampie. L'idea che... Niente, ovvio che sarà problematica questa cosa. Anche lei, intanto vogliamo anticipare un secondo, qual è la vostra impressione di questo lavoro, su questo parere? Allora, noi come associazione, come Riparte il Futuro e Rete di Foia for Italy, siamo soddisfatti del lavoro che ha fatto il Parlamento, siamo stati auditi, il parere ha tenuto conto ampiamente delle nostre richieste. Tenga conto però di una cosa, il parere non è vincolante, quindi ora tutto si sposta sul governo. E se vogliamo fare una piccola battuta, il decreto trasparenza adesso andrà in Consiglio dei Ministri, ma il testo del decreto trasparenza lo conosceremo solo una volta che verrà licenziato appunto dalla riunione del governo, e per cui non sapremo in anticipo quali delle molte condizioni che sono state poste anche dalle commissioni parlamentari verranno poi recepite effettivamente dal governo. Si parlava adesso della questione ANAC e delle linee guida. Questo è tra appunto gli aspetti quello che ci preoccupa di più, perché come anche nell'occasione in cui ci eravamo già sentiti, le eccezioni come si sa sono davvero molte, cioè le materie sulle quali non si potrà allora fare... Proprio sulle eccezioni vediamo se regge, quanto regge il collegamento con l'onorevole Ascani. Torniamo con l'onorevole Ascani, secondo lei le eccezioni... Siamo ancora fermi, quindi forse in questo caso prenderà per qualche secondo. Dicevo che il modo che abbiamo trovato per restringere le eccezioni, che comunque sono principi generali, quindi è giusto che in una norma siano elencati i principi e non le cose specifiche, almeno così io interpreto l'idea del legislatore, però quelle norme specifiche verranno invece, diciamo, delegate ad ANAC, che dovrà specificare in ciascuna delle eccezioni cosa rientra e cosa no. Allora, io le faccio una domanda faccio una domanda concreta alla singola parlamentare, che su questo ha una sua opinione che non coinvolge la maggioranza e il governo, però interessa molto un ascoltatore, perché noi abbiamo fatto il caso tipo in tutti questi mesi quando siamo intervenuti su questo argomento. Cioè, secondo lei, onorevole Ascani, avremo, quindi condizionale e indicativo, il diritto di sapere, per esempio, per i dirigenti RAI di fascia elevata, il diritto di sapere quanto prendono, o restiamo nel regime di tutela privacy? La RAI non li dichiara per tutela privacy. Secondo lei a questa domanda la risposta qual è? Sì, la risposta è anche perché sugli obblighi riguardo alla dieta lo prevede per tutte quelle società che sono pubbliche o a partecipazione pubblica, dove c'è stata una discussione in commissione. Lo so, però per il momento la RAI si attiene a questo e non c'è stato mai verso di venirne a capo. Comunque, naturalmente... In questo caso devono... L'opinione mia è assolutamente sì, che sono, diciamo, qualunque nel senso buono, e quindi io penso che non ci sia nessuna motivazione per negare una richiesta FOIA, una richiesta di accesso agli atti. Allora, rapidissimamente, secondo lei, il governo che atteggiamento avrà verso questo parere, non che è un parere tutto consultivo, ma insomma lei lo sente il governo, quindi che cosa possiamo sperare? Guardi, il ministro Madia ha già detto su alcune cose che dirle, qualora non recepisse delle condizioni in forza di un emendamento approvato al Senato, dovrebbe tornare in commissione a spiegare. Io tendo ad essere sempre ottimista, ma in questo caso ho dei buoni motivi. Ah, dei buoni motivi. Allora, intanto io la voglio ringraziare a nome di noi tutti che ci siamo impegnati come cittadini. Poi se ci sarà bisogno la richiameremo per vedremo il testo che avanzamento ha. Grazie a onorevole Anna Scali. Molto bene, grazie. Grazie. Allora, anche lei, dicevamo, il nostro compito a questo punto è di verificare però che queste eccezioni siano veramente ridotte, no? E certo, e soprattutto che queste linee guida che elaborerà che siano poi efficaci e che non restringano questo diritto che verrà sancito dal film di Information Act. Quindi no, anche perché su questa storia di Cantone io sto accumulando nel tempo delle, per così dire, prove concrete Cantone rischia di essere una foglia di fico di copertura delle cose. Per esempio, nel codice degli appalti, in cui il ruolo dell'ANAC è fortissimo, poi quando uno va a vedere il testo scopre che le soglie delle aste e delle gare, per cui in realtà tutto resta come prima, sono molto diverse da come i giornali le avevano capite, non erano in malafede, e descritte. Quindi bisogna verificare con grande precisione, perché come evidente, almeno questa è la mia opinione, non so come la pensi anche lei, il testo originale era scritto in quel modo perché corrispondeva a un classico della stesura dei procedimenti normativi nel nostro paese, che sono figli e frutto diretto dell'alta dirigenza pubblica, non dell'indirizzo politico. E anche nel caso delle gare, del codice degli appalti e dei contratti pubblici, se uno va a vedere il testo c'è un'enorme differenza tra ciò che viene indicato, ci pensa l'ANAC, trasparenza pura, e ciò che poi in concreto bisogna vedere. Non so se anche lei la pensa allo stesso modo. Lei appunto citava proprio il caso della discrepanza tra indirizzo politico e indirizzo poi della burocrazia, e questo è il caso poi del film di Information Act. Noi avevamo un testo delega da parte del Parlamento e, se vuole, appunto gli indirizzi da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro, che erano in una certa direzione, quindi di apertura. Abbiamo dovuto davvero dare il sangue in questo senso per riuscire a modificare, perché l'impressione è che da parte invece del lato burocratico la norma poi fosse stata pensata per soddisfare le esigenze dell'amministrazione e non quelle del cittadino, che era il rischio che si poteva correre in un'occasione del genere e che appunto si correva. Quello che noi adesso chiederemo, proprio anche per ovviare quello che si diceva prima, è queste linee guida. Noi vorremmo che venisse, che ci fosse un osservatorio proprio per riuscire ad elaborare queste linee guida, in cui venisse anche riconosciuto un ruolo alla società civile. Esattamente, ci vuole un meccanismo aperto di consultazione permanente anche sull'attuazione successiva. È un diritto fondamentale quello di abbattere il muro dell'opacità del Moloch pubblico. Questo per me è una questione di fondo. Allora, adesso abbiamo un minuto di informazione sul traffico e poi torniamo non solo con Federico Angrelli di Riparte il Futuro, ma abbiamo con noi anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle, componente anche lui della Commissione Affari Costituzionali, perché la domanda è: il Movimento 5 Stelle ha votato contro, e ci faremo spiegare il perché. Sarà con noi Andrea Cecconi tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori, in questo pomeriggio del venerdì 22 aprile. Stiamo esaminando una piccola vittoria che abbiamo avuto per il momento. Vediamo se poi sarà vittoria vera sul testo del decreto del governo in cui si introduce nel nostro ordinamento il Freedom of Information Act, cioè una codificazione di un delitto più esteso di cui abbiamo sacrosantamente il riconoscimento, il titolo per avere il riconoscimento come cittadini per avere accesso ai dati della pubblica amministrazione. Come avviene in tanti altri ordinamenti, non era nel nostro paese un testo iniziale completamente deludente, pieno di eccezioni e di opacità, rispetto al quale la Commissione Affari Costituzionali della Camera, lo abbiamo sentito Anna Ascani, deputata del PD, che ha fatto il parere, che però non è obbligatorio, si prendono molte delle osservazioni che ci avevano spinto a lanciare una campagna anche qui come Radio 24. Io personalmente, insieme a tante associazioni come Riparte il Futuro o Foia for Italy, che hanno raccolto la petizione che abbiamo contribuito noi anche a sostenere, oltre 80.000 firme. Abbiamo visto di cosa si tratta ancora una volta, abbiamo ribadito l'impegno a sorvegliare pubblicamente e a darvene conto se adesso il decreto davvero entrerà nel testo del governo. Siamo dell'idea che vada coinvolta la società civile in maniera permanente per verificare l'attuazione, oltre che l'elaborazione delle linee guida di questo provvedimento nel tempo, perché per cambiare l'Italia dal basso bisogna imporre la trasparenza nel modo pubblico che invece pratica l'opacità. E con noi resta Federico Angeletti, Riparte il Futuro, ma a questo punto vorrei sapere da Andrea Cecconi, parlamentare 5 Stelle, che anche lui è componente della Commissione Affari Costituzionali, perché voi avete votato no. Grazie di essere con noi intanto, Cecconi. Grazie a voi e buongiorno. Inizialmente avrei necessità di fare due precisazioni. Sì, certo. Noi chiamiamo Freedom of Information Act FOIA un provvedimento che non ha niente a che vedere con Corretto. Il vero FOIA. Corretto. Esatto. Che non ha niente a che vedere. Voi che siete giornalisti che conoscete bene qual è il modello anglosassone, americano e inglese, noi non ci troviamo di fronte a un vero Freedom of Information Act. Il governo ha semplicemente... Diciamo che questo nella tradizione del diritto amministrativo italiano è una roba octroyée. Dall'alto sovranamente si apre qualche breccia rispetto alla storia che c'è negli ordinamenti di common law. Comunque. La seconda precisazione che va fatta è che noi purtroppo non viviamo in un paese in cui la pubblica amministrazione è trasparente e viviamo in un paese in cui la pubblica amministrazione fa di tutto nel momento in cui si fa una richiesta d'accesso agli atti per tenere chiuso nei cassetti le informazioni che non vuole dare ai cittadini o ai diretti interessati. Ora, è vero che questo provvedimento, nato malissimo dalla legge delega, ci auguriamo molto migliorato con le osservazioni che sono state fatte in commissione, che hanno recepito quasi tutto, non tutto, ma quasi tutte le osservazioni della società civile e delle associazioni, alcune altre portate anche da noi certo. E anche da altri gruppi politici. Detto che ovviamente il parere non è vincolante, ci auguriamo che comunque il governo recepisca tutto, perché non ha ragione di non recepire quello che è stato sollevato. Però noi perché abbiamo votato contro? Abbiamo votato contro per la prima osservazione, cioè questo non è un FOIA, ma abbiamo votato contro soprattutto per quello che è la problematica che ho potuto ascoltare in questi primi minuti della vostra trasmissione, e cioè che esistono una serie di eccezioni che sono molto pericolose e che anche voi della società civile, delle associazioni, vi rendete conto essere il vero problema. Sì. Perché poi io personalmente, nella mia storia politica, come voi nella vostra storia da giornalisti, vi siete interfacciati spesso con pubbliche amministrazioni che hanno continuamente sollevato delle eccezioni e non hanno permesso di dare degli atti che o erano sensibili o riguardavano il bilancio o riguardavano una questione che la pubblica amministrazione ha cercato di mascherare. Poi non tutti vanno al TAR a spendere 1.000-2.000 euro per cercare di avere ragione. Siccome noi siamo opposizione in Parlamento, noi nel nostro paese avremmo voluto un vero Freedom of Information Act e avremmo voluto che, nonostante questo non ci sia stato concesso, che almeno il documento uscito dalla Commissione e quindi il provvedimento che poi sarà in vigore nel paese italiano non fosse semplicemente un allargamento delle maglie dell'accesso civico che noi oggi abbiamo, ma sia veramente un provvedimento che renda trasparente finalmente le pubbliche amministrazioni. E quindi non eravamo assolutamente nelle condizioni di poter dire che questo era il provvedimento giusto per il nostro paese. Quello che noi volevamo era molto di più. Allora, io devo, negato, io devo dire, a chi ascolta, perché questi temi per me hanno a che vedere con, ripeto, il diritto naturale e l'equilibrio che deve esistere tra cittadino e Stato, che nel nostro paese è troppo a favore dello Stato e di chi lo amministra pro tempore, perché poi questo diventa lo Stato, anche se tutti credete a maggioranza che sia la volontà pubblica popolare, di chi? Lo Stato è chi lo amministra pro tempore. Esempio concreto, a Firenze l'accesso agli scontrini dei pranzi dell'ex sindaco, e lì la pubblica amministrazione ha trovato il modo dicendo: no, per carità, ma voi non l'avete individuato di preciso i faldoni, sono tanti, non potete potete avere accesso ma non potete fotocopiarli per studiarli e così via. Si è dovuto andare al TAR, in questo caso sono dei giornalisti oltre che un gruppo politico aver chiesto l'accesso, quindi sono cose fondamentali nella vita di un paese, secondo me vengono prima dalla destra e dalla sinistra. Io per questo, per esempio, il fatto che i 5 Stelle dicano noi votiamo no per dire un domani bisogna fare molto di più e capovolgere la cosa, deve essere un paese nel quale la trasparenza deve essere totale tranne eccezioni, non il regime ordinario è quello di dover individuare di preciso a cosa dovete avere accesso, è il contrario che va fatto. Però io devo dire che lo capisco questo voto, se questa che ci è stata data è la giustificazione, come credo, a parte Andrea Cecconi, perché questa è una lunga battaglia, lo dico anche a Federico Anghele, con questo provvedimento noi siamo solo all'inizio se vogliamo davvero ottenere quello che le associazioni e quello che quelle 80.000 firme che mi auguro, cari ascoltatori, voi continuerete ad apporre, perché altrimenti quel testo non cambia. Però Federico, questo è solo l'inizio, secondo me, non so come la pensi tu. È solo l'inizio, ma anche per rispondere a Cecconi, ecco, tra l'altro mi fa piacere sapere che in realtà, nonostante appunto il parere negativo del Movimento 5 Stelle, anche il Movimento 5 Stelle ha ampiamente fatte proprie le indicazioni che sono arrivate dalle associazioni, e quindi in questo devo dire che c'è stata un'unità sulle posizioni della politica del Parlamento rispetto appunto a quello che a come si sono espresse le associazioni. Devo dire che appunto questo è un processo che ci auguriamo più veloce di quanto non sia stato fino adesso, ma come dicevo prima è un processo in cui davvero il coinvolgimento dei cittadini, la sensibilità dei cittadini su questi temi può fare la differenza. Ne abbiamo, speriamo di poterlo dire quando il testo uscirà dal Consiglio dei Ministri, questi passaggi intermedi in questi lunghi mesi, tenga conto Giannino che fino a un anno e mezzo fa di Freedom of Information Act in Italia neppure se ne parlava. Esatto, eravamo quattro gatti. Il fatto che si sia creata una coalizione così composita di associazioni che su questo tema ha davvero è un ottimo segno che la società civile su queste cose è attiva e può fare la differenza. Esatto. E secondo me questo è l'insegnamento più grande che possiamo trarre. Allora, io nel ringraziare naturalmente Federico e a tutte le associazioni impegnate, sappiano che io su questo continuo a essere impegnato, quindi mi scrivete come ancora una volta è successo e organizziamo le trasmissioni. Io ringrazio i nostri ospiti Andrea Cecconi e Anna Scani. Prima faccio un altro esempio a chi ci ascolta: siamo l'unico paese al mondo in cui per decenni il testo delle concessioni autostradali, delle singole concessioni che sono stipulate in maniera diversa per ogni concessionario, è coperto dal segreto. È una cosa intollerabile. Questa è la radio di Confindustria, io difendo l'impresa, ma un paese in cui i concessionari autostradali viene concesso il segreto è un paese del quarto mondo, perché significa discrezionalità pure nelle formule con cui vengono calcolati i diritti che vengono riconosciuti a quelle imprese rispetto agli investimenti effettuati. Capite che non è tollerabile un paese così. Non è una questione di privacy, questi sono i meccanismi elementari attraverso cui funziona o purtroppo non funziona un mercato, perché il mercato è nella trasparenza delle regole e dei criteri di remunerazione delle quote di investimento, figuriamoci rispetto a quelli dei canoni invece che vengono garantiti poi ai concessionari. Quindi questa roba qui di cui abbiamo parlato oggi ha un impatto immediato nell'economia e nella vita di ciascuno, grazie a chi si impegna. Intanto continuate con Radio 24 e appuntamento come domani mattina dalle 10 alle 12 ovviamente con i conti della Belva.